Una buonasera a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, che ritorna appunto in radio dopo un po' di tempo. Beh, come dire, vacanze natalizie decisamente lunghe da parte del sottoscritto, ma sono tornato, non vi preoccupate. Se qualcuno insomma aveva qualche timore, beh, insomma, che rimanga quel timore, perché appunto sono tornato, il timore appunto che tornasse. 451 frammenti sonori questa sera, appunto, di ritorno, e quindi, come dire, di riallaccio anche a quello che è stato il periodo passato, anche insomma in termini non esattamente esaltanti, non soltanto per le solite nostre solite, perché non è che le vorremmo fare, oppure ogni tanto le vorremmo anche fare e quindi le facciamo, ma solite e in questo caso dovute a faccende legate a morti più o meno premature, visto che stiamo parlando non di persone proprio esattamente giovanissime, però sicuramente premature nel senso di grandezza musicale, nel senso insomma di portata rispetto al Novecento, perlomeno al secolo passato. Chiaramente mi sto riferendo a Bell'Omaggio di Eliseo Scarpa in 451 intersezioni, fatto su Pierre Boulez, e poi un altro personaggio, il Duca Bianco, piuttosto insomma citato dentro le varie radiofonie, dentro i vari spettacoli televisivi. Beh, stasera magari avremo modo di omaggiarlo in una situazione insomma particolare, forse la più importante della sua carriera, insomma, con la Duca Bianco, con la Berlinese. E quindi, facendo insomma un po' un gioco di specchi, 451 frammenti sonori torna con Max Macchia, e torna con 451 popular e quel termine soprattutto legato alla cultura anglosassone, poi di fatto insomma diventato anche termine comune anche come contrazione di pop. Beh, e probabilmente si è perso quel termine appunto in origine, quello di popular, quella sintesi anche fatta dalla pop art di Rauschenberg, per certi versi quella di Warhol, seppur è decisamente più su un versante come dire di sfondamento del mainstream. Con Rauschenberg magari si può parlare più forse di utilizzo del pop, dell'arte popolare o della cultura popolare sui generis, per fare un altro, forse in questo senso Warhol come dire, in maniera provocatoria faceva del realismo capitalista, facendo un po' un gioco rispetto al realismo socialista che invece c'era dall'altra parte. E il popular quindi è tutta la cultura che veniva sia da elementi decisamente così poco creativi, o che non avevano questa essenza, o perlomeno non avevano questa finalità, quindi soprattutto legate alla società dei consumi, agli anni 50 americani, legati appunto a un consumismo insomma che prendeva di fatto forma e che poi si svilupperà soprattutto nel corso del decennio successivo, coprendo anche l'Italia, insomma, un famoso boom economico, e quindi anche buona parte dell'Occidente, con tutto quello che poi si è mosso anche in termini di cultura e controcultura giovanile. Poi l'effetto è stato anche appunto quello di far prendere coscienza rispetto a una nuova forma del capitalismo, sia in chiave artistica, appunto, prima citando Rauschenberg e Warhol, e sia in termini invece prima magari alternativa e poi decisamente anche antagonismo rispetto appunto a questa nuova forma appunto della società. E da quello che si può considerare popola nel senso più largo del termine, e quindi utilizzo insomma del canale popolare sia in termini di espressività ma anche in termini a questo punto di materiale. Beh, figure come ad esempio anche Schifano in Italia con il suo gioco appunto legato al pop, che aveva quasi un sapore popolare qua in Italia, visto che da anche da altre parti, magari appunto dove il capitalismo non era così spinto appunto come negli Stati Uniti, dove c'erano ancora delle sacche, diciamo, o comunque delle contraddizioni che venivano fuori in termini anche piuttosto feroci, non che negli Stati Uniti non venissero fuori, ma di certo insomma per anche così cultura politica e sociale di fatto insomma in Europa e anche in Italia, dove tra l'altro paese è sempre stata piuttosto viva il senso politico, anche se adesso sembrerebbe un po' smarrito, ma poi non lo è neanche fino in fondo se ci pensiamo bene, e se guardiamo appunto i rivoli e quello insomma che sta fuori dal grande palcoscenico, dal grande teatrino, grande insomma si fa per dire, grande sì, mettiamola così, però insomma, forse non lo è affatto, ma appunto quello che ancora si può considerare come qualcosa che sta al di fuori, l'extra poi anche elaborato nell'extra parlamentarismo in primis, che si è sviluppato appunto soprattutto insomma in Italia, e quindi tutto quel suo movimento creato da quasi reazioni appunto al pop inteso veramente nel senso più largo, anche con deturnamenti poi fatti dentro la struttura pop, rotella ad esempio, se pensiamo al décollage e a come utilizzare anche in una chiave piuttosto insomma alternativa quello che poi diventerà materia antagonista anche in Schifano, in molte faccende, ma poi a ben vedere se Warhol, ad esempio prendendo l'esempio sì, senz'altro più mainstream, è di fatto l'icona della pop art e quindi anche dello sfondamento nel mainstream, forse neanche pensato come tale, come sfondamento, ma proprio anche con quella sorta di divina incoscienza di Warholiana che c'era appunto nell'operazione totale dell'artista americano, c'era anche un lato sperimentale legato strettamente, poi sperimentale legato ad esempio al cinema, al cinema warholiano, quasi inguardabile, in questo senso un esperimento folle verso la cultura popolare, quindi tutta anche il gioco legato alla musica, al creare appunto delle icone pop, se pensiamo ai Velvet Underground sicuramente con Nico, quella fu il tentativo, ma dentro c'era un John Cale che usciva dalla Monte Young, dalla grande cultura europea d'avanguardia legata a Stockhausen e ai grandi sperimentatori appunto del dopoguerra europeo, e poi tra l'altro con una faccenda sì che ora sembra quasi data per scontata, ma Velvet Underground, citando appunto loro come esempio, non lo erano affatto famosi alla fine degli anni 60, appunto nel momento di esplosioni poi di altre musiche che invece erano di fatto divenute molto famose, se pensiamo a Jefferson Airplane, a buona parte insomma delle psichedelie californiane, e per iniziare e quindi anche per spostarci un po', questo insomma una sorta di cappello che introduce questo 451 popular, ma spostandoci in quella New York che diventa alla fine degli anni 70 una rimasticatura del popular, ma anche immediatamente dopo anche una sorta di rigetto, una sorta di punk infinito, che però riesce a masticare questo quasi indigeribile con la cultura pop trash, e la Double Life Orchestra con soprattutto Peter Gordon, personaggi come Arthur Russell, che ascolteremo insomma questa sera sicuramente, la Lovely, la Lovely Music newyorkese, che stampava opere d'avanguardia vicino a Gordon Mamma, e anche certa Laurie Anderson, anche se poi di fatto non stampò mai con la Lovely, però insomma molto contigua a quel tipo di sperimentazione, perlomeno nel suo primo lavoro molto bello, United States of America, questo bel cofanetto che vedeva personaggi come Burroughs, che tra l'altro sentiremo anche questa sera. Beh, con Peter Gordon e con Love of Life Orchestra inizia un percorso appunto di veramente di deturnamento della cultura pop, una sonora sarabanda disco con tanto di minimalismo e di strumentazione legata al gioco, addirittura i giocattoli utilizzati, neanche proprio un immaginario defagrante per assurdismo, per così tentare strade intentabili, e appunto facendo ciò riuscendo anche a solcare territori piuttosto inediti. Questo chiaramente in dialettica anche con quello che è stato il fenomeno che potremmo considerare ora tale, della disco punk, di quello che veniva dalla new wave newyorkese e si intersecava in maniera piuttosto strana, amazing, come direbbero appunto gli statunitensi, con strane mutazioni funk, jazzistiche, ma appunto anche disco, anche dance, se non addirittura canzoni pop storpiate o portate a un eccesso quasi pop, una sorta di iperrealismo, sempre per citare un altro movimento, un'altra corrente legata appunto alla popular art. Bene, per iniziare quindi Peter Gordon da uno dei suoi ultimi lavori, poi passeremo appunto in rassegna anche vecchi lavori della LOLO, Love Life Orchestra, Symphony Number 5, con la sua disco da camera, esattamente Chamber Disco, che avvia questi 451 frammenti sonori dentro appunto questa che vogliamo considerare pop, popular, e quello che poi di fatto diventerà uno degli immaginari cronenbergiani, linciani, legati insomma a una cultura pop forse completamente definitivamente esplosa, e poi con tanti rivoli fino ai nostri giorni, che sfioreremo per alcuni versi. Peter Gordon per iniziare. Peter Gordon da Symphony Number 5, un disco uscito tra l'altro l'anno scorso e con quel solito, e solito si fa per dire, come appunto intendevo all'inizio della trasmissione, un solito insolito, ecco, forse potremmo dire paradossalmente, è questo di Peter Gordon, un gioco che si fa appunto per sempre infinito nelle sue musiche, giocando appunto con un certo jazz, con vaghezze di contemporanea, con un'idea di orchestralità molto, molto stramba, se non addirittura da circo folle, potremmo anche citare certo Zappa, forse però uno Zappa che viene, come dire, veramente invaso da tutto quello che può essere cultura assolutamente impossibile, improbabile, come quella trash della disco, insomma, più energy di faccende, insomma, che veramente poco hanno a che fare con l'avanguardia, dove tra l'altro nasce sia Peter Gordon che David Van Tighem, con nella fine degli anni 70, loro primi dischi come solisti prima di formare la Love Life Orchestra, che andavano molto vicino appunto a quello che era quell'humus iniziale, se pensiamo insomma che tutte e due hanno una cultura piuttosto vasta e accademica anche, quindi strumentisti e musicisti di grande caratura anche compositiva, e però invasati, come dire, da una sorta di grande bolla legata a quello che poi sarà l'edonismo degli anni Ottanta, quindi veramente quello che si può considerare più becero consumismo, ecco, dentro le musiche e dentro i percorsi assolutamente assurdi di Love Life Orchestra, che andiamo a prendere tra l'altro con un omaggio, un gioco anche forse di specchi, e ce n'è veramente, ce ne sono tanti questa sera di giochi di specchi. Tra l'altro verso la fine faremo anche un altro omaggio a Pierre Boulez, non contenti insomma della già puntata, insomma, l'intersezione completamente dedicata a lui, e DFA nel 2010, e qualche anno fa LSD Sound System in primis, ma tutta poi la DFA, e quindi è quel strano, perlomeno il primo movimento è suonata tale mistura di wave, di sonorità post-punk uniti alla dance, alla disco, alla house e alla techno, che nel frattempo, nel corso appunto dei decenni, stratificava quella materia sonora elaborata nei primi club molto, molto piccoli, quelli di David Mancuso, i Loft, i primi esperimenti di Francis Grasso, e poi i vari Nicky Siano, e personaggi come Walter Gibbons, che collabora di fatto con quello che ad esempio abbiamo in sottofondo, il grande Arthur Russell, che ascolteremo in maniera compiuta tra poco, che tra l'altro collabora con la stessa Love Live Orchestra, anche egli uno strano connubio di testa avant e corde che sono pop, anche con quello strano insomma percorso che porta sia Van Tighem, Peter Gordon che Arthur Russell a riuscire a comunicare poi utilizzando anche materie insomma piuttosto scottanti, fuori insomma dal mainstream, ma anche ribaltando appunto, ma lo fa con quella così voluta ingenuità e quindi perversa, anche se vogliamo, di dell'avanguardia newyorkese e della fine degli anni 70. Vedete anche un po' l'immaginario, prima citavamo Cronenberg, Lynch, ma anche tutto quello che può essere le memorabilie della fine degli anni 70, newyorkesi, tra punk, no punk, tra no wave, che era tanto wave quanto non lo era, e tra appunto clip assolutamente underground, anche tra l'altro fatte da personaggi che non venivano da New York, quindi anche questa stratificazione poi culturale che è avvenuta di fatto in quel periodo e di conseguenza anche musicale, tutto dentro appunto la Love or Life Orchestra, che andiamo a sentire prima con Roses on the Disco Floor, e la disco torna in maniera ossessiva quasi dentro appunto il percorso di Love or Life Orchestra, che qua viene omaggiata appunto con vari pezzi da una compilation della DFA, che evidentemente non può fare che riferimento a questi papà newyorkesi, papà un po' così, un po' degeneri per tanti versi. E poi dopo l'ascolteremo con un pezzo tête-à-tête proprio con Arthur Russell, così illumina di stranezze lunari il pop, di pop avant pop o no pop, potremmo anche considerarlo, della Lolo Love Life Orchestra. number of times. It's not polite to stare. It's not polite to stare. It's impolite to stare. It's uncouth. Realismo pop, quello di Love Life Orchestra, e magari come anche certo Zappa può dare anche un effetto, insomma, piuttosto deleterio, ma forse volevano anche questo, creare una sorta di provocazione, ma non tanto, forse politicamente espressa in una maniera antagonista, ma al contrario, no? Una provocazione dentro il linguaggio pop, utilizzando lo stesso linguaggio pop, ma con una testa che andava altrove, evidentemente, con potremmo dire un deturnamento della stessa materia trattata, quindi un deragliamento voluto della materia pop, pezzi poi che non ebbero successo, ovviamente, e proprio perché quello operazione che si vuole aliena e che poi tra l'altro il mercato, soprattutto poi figuriamoci quello americano che filtra tutto, forse non, anzi senza forse, non riesce proprio a far passare come cosa, non vuole anche, cioè probabilmente una sorta di anticorpo che rigetta insomma materiale che tratta la stessa immondizia poi creata dalla cultura popolare, che appunto ricreandosi e rigenerandosi in maniera creativa, ricreativa anche, porta uno spazio, un spiazzamento di fatto dell'ascoltatore, quindi anche quel momento, ecco, appunto deturnante, che è assolutamente anticommerciale, forse è proprio l'anticommerciale di fatto, perché diventa anche musica non appetibile per il pubblico alternativo. Forse Love Life Orchestra vivono di questo paradosso, come altre poi formazioni che si svilupperanno, progetti, e anche certo Zappa poi, che diventerà una sorta di comico folle alla fine degli anni 70, con anche degenerazioni volute, no? La stessa musica sua quasi buttata dentro un calderone del rock, del pop, in una versione appunto assurda, una versione che quasi sembra cannibalizzarsi. Questo è un po' forse il filo che può unire la Life Orchestra con l'altro grande compositore americano, Frank Zappa. Love Life Orchestra, che abbiamo ascoltato con un Arthur Russell che è sempre stato, come dire, in forma magnifica nei suoi 40 anni di vita e nelle sue esperienze musicali, ha sempre colorato le musiche tra le più sperimentali, minimaliste, ricordiamo insomma Levo di Niblock, ma dentro appunto il giro dell'avanguardia buona, se così possiamo dire, senza togliere niente a quella cattiva invece, che per tanti versi appunto attraversava invece le strade di New York così in maniera anche qua non più punk, ma l'iperrealismo punk, che quale esasperazione portata a una sorta di quasi ritorno, un aspetto quasi boomerang che si ha, quindi personaggi che vestivano anche in maniera elegante, ma un po' perché portati da un iperrealismo, da una sorta di esasperazione del linguaggio punk, del linguaggio stradale, stradaiolo, anche stradale forse, perché insomma girando tanto a New York di fatto si diventa pezzi di strada anche, e se con Arthur Russell si va a toccare il pop, quello più magnifico, quello veramente quasi beato nel suo farsi semplice, nel suo creare e ricreare continui mondi, continui rispecchiamenti rispetto a tutto quello che è trattato dentro le corde appunto del cello di Arthur Russell, ma le corde anche vocali trattate in maniera assolutamente originale, con questa stranezza che attraversa tutte le sue opere, da appunto quelle più sperimentali, minimaliste, a quelle pop, a quelle disco, a quelle addirittura poi recuperate del rock, forse meno interessante, è come faccenda di Arthur Russell, un po' dentro la moda anche del grande recupero, personaggio che non concludeva le sue opere, non voleva concludere le sue opere, voleva lasciare una sorta di opera aperta, continua. I suoi pezzi sono un work in progress, probabilmente possono essere anche ripresi, forse in maniera cageana, per continuare. Beh, forse anche questo è l'omaggio di DFA, in particolar modo con appunto la compilation ascoltata dedicata a Love Life Orchestra, ma anche appunto a un riferimento chiaro a Arthur Russell e anche a tutto quel mondo underground che si creava in un trattamento piuttosto anche questo veramente fantasioso, se non fantastico, della disco, collaborazioni con Walter Gibbons, Nicky Siano, con anche Basquiat, personaggi anche fuori, appunto, così vagamente fuori, perché poi a ben vedere non sono affatto, appunto, come Basquiat, di fatto, appunto, l'opera stradale era un insieme di emotività che esplodevano, di teste anche che, appunto, andavano veramente verso altri immaginari che di fatto hanno creato sia quella che è la street art, ma tutto quello che è una pop trasversale che poi arriva allo stesso pop, magari così, come dire, confezionato, no? Se pensiamo a tanti artisti poi che hanno dato, come appunto Arthur Russell, proveniendo dall'avanguardia, proprio anche una materia da trattare per tanti, poi, insomma, parvenu della musica, del commercio, poi della musica. Ma andando, appunto, a trovare questa origine, questa strana origine, come tante, insomma, opere originarie che suonano ancora, appunto, avulse dal tempo, anche quella di Arthur Russell, che andiamo a prendere da una bella compilation della Rough Trade, Calling Out of the Context, e anche qua Arthur Russell con quella così polvere stellare che attraversa un pezzo di pop, potremmo dire perfetto nella sua imperfezione assoluta, nel suo farsi gioco meraviglioso, gioco anche beato della materia da lui stessa trattata. And he tried to edge past the doctor into the house. I'm sorry, John. That's morning time before we got there. That's morning time before we got there. That's morning time before we got there. I just wanna be wherever you are. Hard as that can be, it's never too hard. This heart loves to see by its own light. Love inside of me, it's working at night. Seconds before I see you in the dark. This time that I'm so coming to me, take his turn. This time that I'm such fun to be with. It's a big old world, but nothing in it. I can't wait to see you another minute. It's a wild combination. It's a wild combination. It's a wild. It's a loving, baby. It's a talk in the dark. It's a walk in the morning. It's a wild combination. It's a wild. It's a wild. It's a loving, baby. It's a talk in the dark. It's a walk in the morning. That's it. Before we got there. That's morning time before we Assuming yourself.